Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Allora, è cominciato il conto alla rovescia, Enrico Magrelli, Dario Zonta, ci avviciniamo al Natale, noi ovviamente lo viviamo solo attraverso lo schermo e non solo, però non parleremo di cinepanettoni. Assolutamente no. Solo la prossima settimana. Assolutamente sì, perché poi anche di assolutamente non si può più dire assolutamente dalla prossima settimana. Noi siamo servizio pubblico. Servizio pubblico, dobbiamo darci un numero oppure una sigla. Non so, inventiamoci qualcosa. Generalmente non scioperiamo, andiamo sempre in onda, in diretta, qualsiasi giorno, anche a Natale. Non so, avete voglia di dare una sigla a questo servizio pubblico, questo shuttle, navetta del benessere cinematografico? A volte, non sempre, naturalmente. Hanno un numero di telefono per mandare gli sms? Certo, è il 335-5634-296. Si accettano sia numeri che sigle che... Cose brevi, funzionali, sì, che siano facili da ricordare. Quindi non fate cose molto complicate. A che numero di amici siamo arrivati su Facebook? Lo chiedo all'Arcadia che è di là dal vetro. E pare che sia una turba. Un nugolo, un manipolone. Non si può dire manipolone, credo, lo so, no, perché mandano altrimenti subito le correzioni. Salutiamo la nostra prima ospite, gli altri c'è chi in aereo, secondo me accadrà un incidente diplomatico perché un ospite parlerà prima che ci sia il decollo, staremo a vedere, mentre la nostra ospite qui è arrivata puntualissima, è Francesca Pirani, ciao, benvenuta. È la prima volta che viene a Hollywood Party o la seconda? Mi avete intervistato però via telefono. Va bene, allora bentornata, in quei casi vale perché poi la radio ha questo di vantaggioso. Francesca Pirani, che è una regista, però stasera non parliamo dei tuoi film, parliamo dei film degli altri, perché hai scritto e licenziato un libro che si chiama Tarkovsky, la nostalgia dell'armonia, edito dalle mani, vero? Nella sezione Extra Lights, che non è male. Chissà perché hanno messo anche la S finale? Boh. Perché sono le extra luci, no, invece che extra leggeri. Forse siamo in aereo, in collegamento in questo momento, no, ancora, non vedo nulla, Noi procediamo con le notizie. Notizie dai Golden Globe. Baria è entrato ufficialmente nella cinquina del miglior film straniero. Gli altri film non ce li hanno detti, forse perché chissà. Non è così importante sapere gli altri. No. Giuseppe, no, con il quale ho passato la settimana scorsa 3 giorni in giro, 3 giorni molto ricchi e movimentati in Cina, era quasi sicuro di non farcela entrare nella cinquina dei Golden Globe. Invece le cose sono andate diversamente. C'è già il toto votazioni. Sì, la cerimonia si svolgerà il 17 gennaio. Speriamo che l'ANSA sia precisa questa volta. Beh, sì, perché con le date uscite una serie di notizie false e tendenziose. No, questo è il nostro ospite non è raggiungibile. Non vi diciamo chi è, perché così non facciamo noi. Probabilmente stanno rollando i motori. Oppure scarico il telefonino? Non lo so, qualcosa del genere. Ma è già accaduto in passato, perché noi cerchiamo di fare questi collegamenti veramente agganciando gli ospiti in qualsiasi condizione essi si trovano. Questa era estrema. Questa era estrema perché stamattina è stato presentato il film, non mi diciamo ancora qual è. Naturalmente poi ci sono altre città che aspettano con ansia. Forsennata, il film esce in 650 copie, non vi dico qual è il film, non ve lo diciamo. Pare che la battaglia del 17 gennaio ai Golden Globe vedrà 2 protagonisti, Tra le nuvole, non l'avevi visto a Roma? No, non l'ho visto. Devo dire piuttosto carino, e Avatar, che non è ancora uscito, sono uscite recensioni estatiche. C'è un libro meraviglioso, se volete prepararvi spiritualmente all'impatto, all'incontro con Avatar, pubblicato, è il libro ufficiale di Avatar pubblicato dal Castoro. E io ormai ho già strappato tutte le pagine, perché poi ho cercato di costruire, di metterle, non è vero niente, però il libro è veramente molto bello, non ho provato a metterle naturalmente in sequenza. Poi ci sono altre notizie, però non ve le diamo tutte ora. Tu hai delle cose più serie. Ho delle notizie più serie. Una riguarda Roman Polanski, perché il suo nuovo film sarà presentato in anteprima al Festival di Berlino, The Ghost Rider, con Ewan McGregor e Pierce Brosnan. È l'ultima fatica del regista, attualmente ancora agli arresti domiciliari nel suo chalet. Tu sai qualcosa di più di questo no, film? No, ho visto un trailer lungo, però ammetto che sono egoista, vi faccio ascoltare credo soltanto 17 secondi, sembra molto bello, è un thriller purissimo. In Italia il libro, perché è ispirato a un libro, non ha venduto molto, è un libro piuttosto piacevole, che è la storia proprio di un uomo, Ewan McGregor, in questo caso, che scrive discorsi politici, cioè completi il lavoro, un libro su un uomo politico. che è Brosnan, che come molti uomini politici ha un triplo, quarto, quintuplo fondo. Abbiamo 17 secondi fondamentali, ve li proponiamo. In one decision Lang made in 10 years as prime minister, which wasn't in the interest of the USA. Oh, who are you? I'm your ghost. Allora, Ghost in concorso a Berlino, i nostri inviati hanno già preso l'accredito, hanno preso la base operativa, quindi Crespi e Miriam saranno lì e ascolteremo dei racconti fenomenali, naturalmente. Stai leggendo delle SMS? Sì, Isabella ci chiede quando ci raccontate il film francese Welcome, ma noi l'abbiamo fatto, cara Isabella. È stato fatto probabilmente con... saranno stati gli unici 20 minuti che non hai ascoltato dalla settimana scorsa, perché sappiamo che sei un'ascoltatrice frequente. L'abbiamo fatto e mandando in onda anche due brani dell'intervista. Quindi potrebbe esserci il podcast sul sito. Il podcast sicuramente c'è, credo che la giornata fosse giovedì o mercoledì. E allora il podcast ancora c'è, prova a cercare, anzi lo diciamo, il giorno successivo, la mattina successiva intorno all'ora di pranzo c'è la possibilità per chi volesse conservare gelosamente le cose preziose dette la sera prima, perché c'è chi l'ha sentita e poi le vuole risentire fino alla nausea. Ci sono delle cose. E sono delle forme di perversione sofisticata, particolare. Il servizio pubblico induce anche questa, no? Abbiamo questa dipendenza. Il Ghost Bus che ripassa su internet. Non arrivano però sigle. Non arrivano sigle, no, al 335-5634-296, aiutateci a dare un nome a questa nostra invenzione, un po' bislacca. Un po' bislacca. Forse riusciamo, è veramente un'intervista quasi in esclusiva, non ce l'abbiamo ancora l'intervista in esclusiva, è un'intervista però in esclusiva. Sì, perché c'è una notizia che è stata battuta alle 16.55 di oggi pomeriggio, ovvero Habemus Film. Habemus Papam, il titolo nuovo, anzi il titolo del nuovo film di attesissimo di Nanni Moretti. E tra gli sceneggiatori risulta esserci tale Francesco Piccolo, scrittore casertano, nonché sceneggiatore, braccio destro, penna assolutamente felice di Nanni Moretti per queste sceneggiature. Allora noi sappiamo che Francesco Piccolo ha la consegna al massimo silenzio e quindi lo abbiamo voluto importunare. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Allora, confermi, cominciamo dalla domanda semplice, Francesco, perché giustamente sappiamo quanta discrezione c'è intorno ai nuovi progetti, secondo me legittimamente, di Nanni Moretti. Confermi che sei uno degli sceneggiatori? Cominciamo da questo, perché sennò sono le domande, è inutile che te le facciamo. Diciamo che sarebbe un segreto anche questo, ma a questo punto riveliamolo. La accendiamo. Io e Federica Pontremoli siamo gli sceneggiatori. Vabbè, quindi diciamo abbiamo... che io so tutto quello che c'è scritto nelle agenzie di oggi. E sono corrette le agenzie, perché poi parlano anche di una data di inizio delle riprese, Dario, mi pare, vero? Sì, dicono fine gennaio. Ci confermi che l'inizio delle riprese potrebbero essere a fine gennaio? Sì, potrebbero, mi sembra la parola giusta. È un condizionale che può funzionare in questo caso. Dunque, ci sono varie voci, Francesco, nel senso che avete fatto 20 stesure della sceneggiatura? No, devo dire, questa è invece... È una leggenda metropolitana? È una leggenda, con Nanni invece si fanno veramente due stesure di sceneggiatura. Il problema è che la prima dura un anno e mezzo e la seconda un anno. E quindi valgono 20 a questo punto dal punto di vista temporale. È un'altra cosa che potremmo chiedere, se ci confermi, perché quando c'è la consegna al silenzio bisogna lavorare sulle notizie, ci confermi che Habemus Papam è il titolo del film? Sì, cioè, appunto, diciamo. No, noi facciamo un servizio pubblico, Francesco Piccolo, dobbiamo dare delle notizie certe, quindi siamo sui fatti. Queste sono certe, appunto, quello che... tutto quello che hanno battuto le agenzie è vero, Habemus Papam è il titolo e io vi aiuterei anche un po', ma... Grazie, ti prego. No, ma non è il caso che tu lo faccia. No, dai. No, il mio problema è che con Nanni usiamo una tecnica nuovissima, modernissima, per cui i sceneggiatori scrivono il film senza conoscere la trama. Questo mi sembra sublime, cioè nel senso che viene molto parcellizzato quindi il lavoro, perché lo diciamo per i 2 o 3 ascoltatori che non lo sapessero, quando si scrive una sceneggiatura, no, si ragiona e poi ci si dividono le parti in qualche modo, credo. Voi fate così oppure no? Noi veramente no. viviamo sempre insieme. Ah, sempre, vedi che bello però. Tutti e tre insieme. La tecnica che Nanni ha sviluppato, che io dico sempre di brevettare perché è una tecnica specialissima, è che scriviamo le scene in modo talmente confuso che noi sceneggiatori non riconosciamo la trama. Questo è un po' quello che fa Arriaga. È vero, è vero. Però diciamo la differenza è che Arriaga capisce cosa sta scrivendo e noi no. Sì, però poi di solito quando si vedono i film di Nanni Moretti si capisce tutto. Qualche volta quando vediamo i film scritti da Arriaga, io almeno che sono molto limitato, mi perdo. Certo, poi si ricompone tutto nei film, sì, di Moretti. Sì, quello è vero, quello è vero. Senti Francesco, ma sulla base della tua esperienza, qual è lo iato che passa tra la sceneggiatura e il film generalmente nel film di Nanni Moretti? Ovvero, è piuttosto aderente o sostanzialmente ci sono dei fuoripista, delle distanze anche importanti? Ma distanze importanti no, io poi ho esperienza degli ultimi film e sono dei film che narrativamente sono molto chiusi, mentre per esempio i film che scriveva prima e spesso li scriveva da solo erano dei film dove la narrazione era più aperta. Ovviamente Nanni sul set, come fanno molti registi, tende a cambiare, a inventare eccetera, ma questo io credo che non solo sia legittimo, ma uno sceneggiatore deve sperarlo che dalla sceneggiatura si arrivi poi ogni tanto anche a fare delle invenzioni, anche perché il set è la vera sostanza di ciò che succede. Di quello che succede. Francesco, una cosa, spesso c'è un uso della musica, delle canzonette particolarmente popolari. Ci sarà della musica sacra in questo nuovo film? Eh? Questo veramente non lo posso dire. Non lo puoi dire. Ma ce ne sarà la Fandango come coproduttore? Esatto, questa è la novità, direi, anche di questa notizia di oggi, perché appunto il fatto che ci sia la Fandango in coproduzione e poi appunto con la collaborazione della società francese della Pact, il fatto che ci sia la Fandango insieme alla Sager a produrre questo film mi sembra che sia una bella notizia. È una notizia importante di sicuro. Noi ti ringraziamo moltissimo, hai detto quello che dovevi dire. Sì, adesso puoi agilmente scendere dal bus del servizio pubblico che abbiamo messo su. Francesco Piccolo, ti ringraziamo. A presto, buon lavoro. A presto. Continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the auto. Allora, ovviamente Marilyn in musica, come non parlare? Il film ovviamente al quale accennavo prima, 650 copie, ma non è un cinepanettone, è il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, Io e Marilyn. Leonardo, tu sei in aereo, sei sceso dall'aereo, dove sei? Bentornato tanto per cominciare. Salve a tutti, buonasera, sono sull'ala dell'aereo. Magnifico. Mi hanno buttato fuori, per cui con una mano vi sto parlando col telefonino attaccato all'orecchio, con l'altra mi sono attaccato al motore. Senti, oggi in conferenza stampa, tra le tante cose, tu hai molto insistito dicendo questo film non è un cinepanettone. Aiuta i nostri ascoltatori a capire perché non lo è. Ma no, in realtà, guarda, non è che non è un cinepanettone, perché pare che automaticamente il cinepanettone sia qualcosa di indigesto, come appunto il panettone spesso e volentieri dopo che ha mangiato la ribollita, il maiale e quant'altro. È un film che esce a Natale, poi spesso e volentieri ho fatto anche delle uscite per esempio a ottobre, e alcuni film sono usciti a ottobre e la matrice, quello che ho voluto raccontare, si è espresso bene anche in un altro periodo dell'anno. Poi non è un problema, nel senso che se poi automaticamente ogni film da Piovono polpette a King Kong quando escono a Natale si pignalano l'etichetta, uno se la tiene senza problemi, naturalmente. Ma sì, assolutamente, figurati. Leonardo, come l'avevi anticipato, si vedono già i trailer, ti confronti con una donna speciale in questo film, che è Marilyn Monroe, è l'anima, il fantasma di Marilyn Monroe. Quando vi è venuto in mente, perché appunto poi hai scritto questa sceneggiatura e tu hai diretto il film insieme al sodale di sempre Giovanni Veronesi, in che momento, in quale pomeriggio, di fronte a quale immagine? No, te ho capito cosa vuoi dire. No. Di fronte a quale Brunello di Montalcino? anche volendo. Allora, questo lo devi chiedere a Giovanni Veronesi, che me l'ha raccontata dicendo: sai che io vorrei fare prima o poi questo film e te lo racconto, magari se ti piace molto lo potresti anche fare te, ma tanto te il fantasy non sei molto abituato a frequentarlo. Invece, istantaneamente, appena me l'ha raccontato, assistenti di volo armati, sì, appena me l'ha raccontato, ho capito che mi sarei divertito come un pazzo, come tra l'altro ho fatto, sia a scriverlo che poi a metterlo in scena. Veramente ho l'impressione che a questo punto devi spegnere il telefonino, puoi stare ancora un secondo con noi? Ah, c'è un signore insomma che sta... Che ti guarda minaccioso? No, l'ha capito, sì, non so che cosa voglia dire. No, comunque beh, forse... No, allora continuiamo magari a raccontare noi del film. È una commedia sentimentale venata di malinconia come nessun altro film, e questo mi pare una grande qualità, almeno dal mio punto di vista. Ne sei consapevole, Leonardo, sì? Sì, beh, ognuno è il film che fa in quel momento. Sicuramente questo è quello che mi è venuto di scrivere insieme a Giovanni quasi un anno fa, e di realizzarlo con quei toni, che sono sì quelli della commedia comica, ma c'ha anche sicuramente questa traccia più sentimentale rispetto a quelli che sono stati i miei film precedenti. Leonardo, sento che ormai la linea è veramente molto disturbata. Grazie veramente di questo collegamento. Adesso do io pochissimi elementi di trama. In bocca al lupo per il film, naturalmente. Grazie, un bacione. Stai a bene. Tutti voi e ai vostri ascoltatori. Ciao, grazie, ciao. Allora, come avete capito, Pieraccioni separato, ha una figlia adolescente. Ha cambiato un po' alcuni elementi della sì, sua e a un certo punto una seduta spiritica fatta insieme a una signora del condominio e a una coppia molto moderna e aperta di pasticceri interpretati da Luca Laurenti e Ceccherini evocano il fantasma di Marilyn Monroe, che si installa in casa, però la può vedere e sentire soltanto il personaggio che si occupa di piscine, interpretato da Leonardo Pieraccioni, e Marilyn diventa il mito di sempre, ha il vestito bianco di quando la moglie è in vacanza, la gonna, il vestito si alza a un certo punto, non vi dico quando, sempre con molta discrezione, ed è un film molto casto in cui Marilyn diventa l'angelo custode, la dispensatrice di consigli. Ci sono alcuni degli attori che spesso Pieraccioni utilizza, in particolare Rocco Papaleo, che ha una mania, e lo trova in una sorta di seduta di gruppo, perché il terapeuta è un signore che si chiama Guccini, che torna, il vero Guccini, ha la mania di seguire le persone, perché forse si perde nella vita e nell'identità degli altri, e soprattutto vuole avere una documentazione, non vi svelo di che tipo, della presenza del fantasma di Marilyn Monroe nella vita del suo compagno di terapia di gruppo. Ma è vero che il toscano non è esattamente la prima lingua di questo film? C'è il toscano, ma c'è Biagio Izzo, che è il nuovo compagno dell'ex moglie del personaggio di Pieraccioni, e c'è un momento in cui Pieraccioni si esibisce in napoletano stretto e Biagio Izzo in toscano. C'è un momento, l'avete visto nel trailer, quindi per questo lo diciamo, in cui scoppia una bombola d'elio e la voce diventa quella voce sottile molto, molto singolare. Io e Mary, noi abbiamo, credo, una clip da proporvi, una scena del film. Ascoltiamolo insieme. Ora vai da lei e le dici: amore, sono venuto fin qui per vederti. No, amore non glielo posso dire, gli dico Ramona. No, amore. Ramona. Amore. Ramona. Amore. Ramona, mettiti. Ma con chi sta facendo? Ciao, Ramore. E sono venuto a vedere il tuo numero nuovo. Ciao, Gualtiero, che sorpresa. Sei venuto fino a Rimini. Sì, c'hai il numero nuovo, no? Me l'ha detto Martina che c'hai il numero nuovo. Volevo essere presente. E volevo essere presente. Strano, te ne è mai importato nulla del mio lavoro? Non è che non me ne è mai importato, ero geloso. Non è vero che non me ne è mai fregato niente del tuo lavoro. Ero geloso. Ero impegnato. Ero geloso. Ero impegnato. Geloso. Ero impegnato. Geloso. Impegnato. Geloso. Impegnato. Impegnato. Ero parecchio impegnato. E ho capito, Gualtiero. Ma che c'è? Sei strano. Sono emozionato. No. Questo è troppo. Perché troppo? Sono emozionato. Sì, dai, sì. Sono un pochino emozionato. Sì! Bravo! Ehi, Gualti! Oh, Pasquale! Allora? It's been raining like this for 3 days now. It's siamo rientrati, abbiamo sentito un po' di una clip, insomma, del nuovo film di Pieraccione, abbiamo sentito un gong, il quiz, non so, credo che sono almeno tre giorni che questo quiz è. Ed è veramente abbastanza facile. Forse anche qualcosa di più. Forse non ricordo il numero di telefono per chiamare. Lo ricordiamo noi. 800 050 333. Allora, la nostra Arcadia oggi ha molto lavorato sugli arpeggiatori, perché loro sono molto sofisticati musicalmente. Arpeggiano tutto il pomeriggio. Questo frammento di musica, che adesso rimane poi in sottofondo, si chiama Motion, ho dimenticato già gli autori, ma ve lo diremo poi più tardi, e può essere, una buona introduzione, ammesso che l'arpeggiatore sia qualcuno che ha a che fare con la nostalgia dell'armonia, come recita il sottotitolo, chiamiamo, o la precisazione del libro di Francesca Pirani, edito, diciamo, dalle mani, e Francesca è con noi dall'inizio. Poi avevamo queste incombenze veloci, aerei che partivano, piccolo che stava uscendo dallo studio. La nostalgia dell'armonia è stato è una cosa che Tarkovsky stesso aveva e dice, tu a un certo punto lo citi. Nei ringraziamenti, però, credo che sia importante, no? Diciamo prima, tu sei una regista. Hai incrociato però Tarkovsky nella tua formazione, vuoi condividerla con i nostri ascoltatori, questo incrocio, questa intersezione esistenziale? Perché io facevo il certo sperimentale e lui doveva essere il nostro docente quell'anno. Però, tra l'altro, io, accidenti. Perché io tra l'altro ho fatto un primo anno il certo sperimentale e poi a giugno mi hanno bocciato, ma è stato un anno strano, un anno prepodeutico con strani criteri, per cui io poi ho saputo che l'anno successivo sarebbe arrivato lui. A questo punto io mi sono ripresentata, ho rivinto il concorso e poi ho fatto il centro sperimentale, ma lui non è arrivato. Però io infatti sono entrata da quel tempo, sì, in qualche modo. Ma io quando sono stata al centro sperimentale, ecco, ho fatto il tema dell'ignorante, quello parla di un film che ti piace, perché io venivo dal teatro, non ho nessuna formazione. La famosa traccia C, esatto. La terza. E quindi io scrissi questo tema per entrare al centro sperimentale su Andrei Rublev, quindi lì è iniziata la cosa. E quello ed è un film che avevi incontrato quando e dove? E perché ti era piaciuto così tanto? Quando è uscito in Italia, io l'ho visto in sala, in russo, mi ricordo, l'ho visto tante volte, un film che ho visto tante volte e mi era rimasto dentro, ma io all'epoca non pensavo neanche di fare teatro, era ancora una cosa molto remota, insomma. Probabilmente dalla webcam vedete il nostro Carlo Fabiani, perché c'è con i microfoni una maestria assoluta, silenzio, però appunto dal momento che ti vedono in webcam, Carlo, abbiamo denunciato semplicemente proprio per farvi arrivare a casa, molti di voi lo so, saluto tantissime persone, perché poi ho incrociato in angoli del mondo impressionante, la nostra ascoltatrice di prima era in Turchia, quindi aveva perduto questa puntata e adesso recupererà il podcast. Francesca, proviamo a spiegare che cos'è secondo Tarkovsky e secondo il lavoro che tu hai fatto intorno ad alcuni film. Tu hai focalizzato il tuo saggio intorno non all'intera filmografia. Che cos'è questa nostalgia dell'armonia che suona ed evoca delle associazioni più o meno libere, forse anche troppo vaste? È lui che quando gli hanno chiesto, non so se è proprio a Paolo D'Agostini, lui lo riportava questa cosa, hanno chiesto vabbè, ma come si potrebbe definire il suo cinema? Lui disse la nostalgia dell'armonia. E per quello che a me sembrava, che io andavo un po' cercando in questi tre film, mi sembrava che questa definizione calzasse, ecco, che quindi non mi stavo inventando qualche cosa, perché la nostalgia è qualcosa già di abbastanza impalpabile, insomma. Dell'armonia mi intrigava questa parola, che cos'è l'armonia, quindi ho pensato, appunto, siccome un po', io ho detto, forse il tema, che è il tema del silenzio, che è molto ricorrente in tutti i suoi film, questi personaggi silenziosi, quindi sono personaggi che raccontano attraverso le immagini e non attraverso il linguaggio, quindi ho pensato al primo anno di vita in cui tutti gli esseri umani non parlano e quindi a un anno fatto di sensazioni, di emozioni, di affetti, è come se lui desse voce, rappresentasse un po' quella condizione primigenia che lui forse ha sempre inseguito tutta la vita o comunque senz'altro ha rappresentato. Sentiamo una clip tratta da uno dei film che analizzi, Stalker. Supponiamo pure che io entri in quella stanza. Divento un genio e torno nelle nostre città dimenticate da Dio. Mi segue? Ma l'uomo scrive soltanto perché si tormenta, perché dubita e perché deve continuamente dimostrare a se stesso e agli altri che davvero vale qualcosa. Ma se sapessi con certezza di essere un genio, perché dovrei continuare a scrivere? Me lo sa dire perché? Questo accostamento tra Tarkovsky e Pink Floyd è ardito sicuramente, ma forse anche armonico, no? Cioè nel senso che ci può stare, è evocativo. Francesca Pirani, allora una domanda che traggo anche leggendo appunto la quarta di copertina, in cui si dice: straordinario cineasta russo, scomparso da poco più di 20 anni, Tarkovsky sembra essere scivolato nell'oblio, a differenza di altri registi ancora studiati e riproposti dai media. È verissimo, Tarkovsky sembra lontanissimo, ecco, dalla riflessione cinematografica, in un momento in cui tutto viene rianalizzato, recuperato, ristudiato, riproposto. Tarkovsky no. Allora, qual è secondo te la ragione di questa distanza? Perché oggi è molto più difficile affrontare Tarkovsky di 20 anni fa? Senza parlare, cioè, di condizioni culturali estremamente diverse, insomma, certo. Per cui come recettività, come ma anche pubblico molto più avvezzo, insomma, a frequentare cineclub e quant'altro. Penso un po' per il fatto che lui è senz'altro un regista poeta, è un regista tutto tondo, ha quella compattezza tra la propria vita, la propria coerenza e l'essere regista che ritroviamo soltanto in pochi. Diciamo, in pochi registi, insomma, penso a Bresson, insomma, alcune figure estremamente, estremamente coerenti con una propria linea di ricerca. Questo al di là proprio del fatto che poi comunque è un regista di immagini, lui racconta prevalentemente attraverso l'immagine, immagine poetica, quindi forse può essere stato questo, anche se poi penso che invece l'avvenire sia tutto da esplorare nel cinema, cioè che sia molto affidata al linguaggio delle immagini, che hanno delle potenzialità di accostamenti enormi. Francesca, perché hai scelto solo 3 film? Appunto abbiamo prima ascoltato Stalker, non so poi in russo come si pronunci esattamente, non ne ho idea. L'Andrei Rublev e il sacrificio. Perché hai scelto proprio questi 3? Ma in realtà perché io ho seguito anche molto la traccia dei suoi diari. Quindi ho un po' cercato di intersecare la sua vita, in qualche modo, cioè, non è il suo primo film perché è il secondo, ma il primo completamente suo, insomma, rispetto all'infanzia di Ivan, poi quasi a metà, in qualche modo, comunque è un film molto importante che è Stalker, e poi l'ultimo, perché già in Stalker lui per esempio si ammala, questo infarto gravissimo, poi comunque butta metà del materiale, lo perde, e poi comunque comincia a cambiare proprio il tenore dei suoi, cioè quando racconta, comincia a raccontare di incubi, di angosce, come se veramente si fosse inclinato a qualche cosa. E io adesso sentivo il pezzettino che abbiamo mandato, ecco, diventa sempre più parlato il suo cinema, e mentre prima è tutto molto dentro, fuso alle immagini, il racconto, lì le corde un po' si scoprono, si tematizzano alcune cose, anche tutta la dimensione interna che prima era molto fusa nel racconto di Rubliov, qui in qualche modo lo spazializza, questo mondo interno, diventa la stanza, diventa qualcosa da raggiungere, ma in più diventa anche un percorso accidentato, il famoso tritacarne che lui percorre, che questi personaggi percorrono, è quasi un condotto fognario con questo ghiaccio, cioè diventa, e poi soprattutto si arriva a questa stanza che è irraggiungibile perché si pensa che lì in realtà si materializzino soltanto delle condizioni estremamente perverse dell'uomo. Siamo già molto distanti da quello che poteva essere l'armonia, per esempio, della conclusione di Rubliov con l'adolescente che invece inventa la fusione, la campana. Quindi anche dal punto di vista dell'immagine, per non parlare quando arriva all'ultimo film, è quasi un film teatrale, molto più freddo, c'è questo senso di incombenza, proprio parla dell'apocalisse, il silenzio dell'apocalisse, anche proprio l'uso che fa della macchina da presa. I controcampi, cambia veramente tutto. Dunque noi abbiamo la nostra Arcadia, che è implacabile, lo dico veramente come grande complimento, è andata a recuperare, proprio che vogliamo proporre a te, ai nostri ascoltatori, la voce di Tarkovsky. Donatella Baglivo ha firmato nel 1984 un documentario che si chiama Un poeta nel cinema, e vi facciamo ascoltare che cosa risponde Tarkovsky. Io vi faccio una sintesi brevissima, poi ascoltiamo un po' della sua voce, e una delle domande era che cos'è l'arte, e Tarkovsky risponde che in realtà bisognerebbe fare una domanda molto più ampia di questa, come se che cos'è l'arte non fosse abbastanza ampia, perché dice che lo scopo dell'uomo è quello costantemente di accrescere se stessi, noi stessi da un punto di vista spirituale, e se la nostra vita ha questo orientamento, allora l'arte è destinata ad andare verso quella direzione, quindi proprio quello dell'arricchimento soggettivo e collettivo. Aiutare l'uomo a conoscere il mondo, secondo Tarkovsky, non è l'obiettivo principale dell'arte, che si dichiara da questo punto di vista quasi agnostico. E dice: la conoscenza ci distrae, più conosciamo e meno conosciamo, più andiamo in profondità e più l'orizzonte sembra restringersi intorno a noi. L'arte quindi può arricchire le capacità spirituali dell'uomo, ma questo se poi aiuta l'uomo stesso verso una sorta di trascendenza, che almeno nella prima parte della sua filmografia è una trascendenza filosofica, esistenziale, poi c'è questo spostamento religioso, chiamiamolo così, e ragiona anche molto brevemente sul libero arbitrio. La voce di Tarkovsky. Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный, общий. Вообще, зачем человек живет, в чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наше служить, так сказать, для этого. Если бы, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя, очевидно, и искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Но в силу того, что я свой смысл существования человеческого определяю именно таким образом, мне кажется, что и искусство должно человеку помогать развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство таким же образом познавательно, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. Я вообще не слишком верю в возможность познания. Я почти агностик. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. Io non ho pensato a questo. E va bene, dimmi una cosa, ma sii sincero. Il popolo è ignorante o non è ignorante? Eh? Non mi rispondi. È ignorante. Ma di chi è la colpa di questo? La colpa è della loro stupidità. E basta. Tu hai mai peccato a causa della tua ignoranza, Andrei? Io come gli altri. E io lo stesso. Signore, perdonami nella tua immensa bontà. Anche se non lo merito. Il giorno del giudizio si avvicina e noi bruceremo tutti come tante candele. E io lo vedo già che cosa succederà quel giorno. Ognuno darà la colpa di quello che ha fatto agli altri e giurerà di essere innocente. Come fai a dipingere se hai queste idee, non lo capisco, e ad accettare le lodi che ti fanno. Io mi farei eremita e andrei a vivere in una caverna per sempre. Io servo Dio, non gli uomini. Oggi gli uomini ci lodano, domani ci copriranno di insulti e il giorno dopo si dimenticheranno di noi completamente. Si scorderanno di te, si scorderanno di me, si scorderanno di tutti. Tutto è vanità, tutto finisce. L'umanità non sa far altro che ripetere attraverso gli anni, attraverso i secoli, tutte le sue azioni più basse, quelle che le fanno meno onore. È come un circolo vizioso. Se Gesù tornasse sulla terra, io credo che sarebbe crocifisso di nuovo, tale quale come allora. Se sai ricordare solo quello che è successo di male, la felicità ti sarà sempre sconosciuta. Ah, sì? Certo, anche le cose cattive vanno ricordate, però non so, non mi so esprimere bene. E allora è meglio che tu stia zitto e ascolti. I nostri ascoltatori stanno apprezzando la scelta di parlare di Tarkovsky. In effetti ne abbiamo parlato poco, ne vorremmo parlare di più. E ci segnalano anche, ad esempio, che c'è stata una bellissima retrospettiva di Tarkovsky realizzata l'anno scorso dalla Bottanta a Bergamo. La fortuna di vivere in provincia, è vero. Poi invece ci chiede Bernardo se nel fare questa ricerca hai utilizzato il libro di Massimo Nardin. Lo chiedo appunto a Francesca Pirani. Sì, a parte che Massimo Nardin è un mio amico, ha presentato l'altro giorno insieme a Norma Mozzato e Spagnoletti il libro La libreria del cinema, e ha scritto un tomo enorme lui di 600 pagine in realtà su tutto, cioè lui l'ha affrontato inquadratura per inquadratura, tutto, ha fatto un testo lavoro. Fondante come è un testo fondante lui, anzi insomma poi insomma ci siamo conosciuti proprio in un convegno ha fatto. Senti Francesca, una cosa che, allora, se appunto ci rivolgessimo a un giovane, di quelli che di un ventenne oggi, quindi di uno che potrebbe non sapere nulla di Tarkovsky, oltre a questi libri che abbiamo citato, può rintracciare quasi tutta l'opera cinematografica di Tarkovsky in DVD? Sì. Tranne? Tranne Sacrificio, che però se lo può far spedire tranquillamente, ormai in due giorni arriva. E che tipo di edizioni sono? Sono piuttosto curate, nel senso con degli extra, oppure sono film a secco senza un grande lavoro dietro di filologico? No, alcune sono più, in alcune c'è del materiale, comunque erano anche un po' anni in cui, cioè, non è che c'è un gran materiale, insomma, tranne appunto un po' Sacrificio che è andato a fuoco. Hanno fatto tutta una scena finale in cui incendia tutta una casa e lì gli si è inceppata la macchina da presa, e questa cosa è testimoniata e c'è, è presente appunto nei contributi, questo incidente gravissimo, dovuto ricostruire tutto da capo e rigirare, per dire, no? Però esistono insomma, un po' di altre cose che l'arricchiscono. Io ho anche un'edizione russa, in quella è più completa, anche sulle icone, insomma, esiste un po'. Quindi insomma bisogna un po' andare a cercare, perché poi quando si entra in una videoteca non è che immediatamente al primo posto. Giustamente, tra le tante cose che metti a fuoco nel tuo saggio, Francesca, ricordiamo appunto che stiamo parlando del libro di Francesca Pirani, Tarkovsky, pubblicato da Le Mani, si sottolinea quello che, anche lo dicevo un po', no, nel frammento di documentario dell'84 che vi abbiamo proposto, che nel suo cinema c'è un primato decisivo del sentire o del vedere, anche se poi vedere in qualche modo è già capire rispetto al capire. Vuoi approfondire un po' questa? È chiaro che ci vorrebbero 6 ore, no, non ce l'abbiamo. Sì, no, ma senz'altro. Però è una cosa fondamentale, sì, sì. E sollecita lo spettatore proprio a stabilire un patto molto preciso con quello, sì, che lui racconta. Ma senz'altro nella sua prima fase, cioè parte nel libro, insomma, Scolpire il tempo, un bellissimo libro che è scomparso dalla circolazione, ma senz'altro fino a Solaris e a Stalker è molto prevalente questa fiducia nella capacità delle immagini di evocare e di evocare un mondo poetico e quindi di arrivare in maniera più irrazionale al sentire, proprio ricollegarsi, se vuoi, a questa dimensione dei sogni, del primo anno di vita, che è comune a tutti. È una cosa purtroppo che si perde man mano, come se lui man mano si appesantisse e quindi diventasse sempre più esplicito, un po' più didascalico nei suoi intenti, e quindi forse questa fiducia si spegne in mano a mano, però senz'altro fino almeno a Stalker è estremamente forte questa fiducia proprio su l'indefinito, sul sentire che è collegato appunto alla visione, a quella che sono forse anche le proprietà più importanti che abbiamo, cioè quelle di tutti noi, che sono quelli dei sogni notturni, ma anche di tutto un primo anno di vita, che è quello che conserviamo tutti dentro in qualche modo, no? Che sì, è legata alla sensibilità. La conoscenza può diventare una zavorra fenomenale. Sì, infatti lui lo dice, infatti, esatto, come se il conoscere spegne, lui non è mai simbolico, infatti non è mai freddo, pur essendo estremamente visionario, no? Senti Francesca, hai citato prima i diari di Tarkovsky, sì. Che tipo di riflessione, come usava questo diario, che tipo di riflessioni svolgeva su di questi? Perché i grandi, soprattutto, sì, i registi poeti, hai citato, sì, anche Bresson prima, usavano le note, i diari, sì, devo dire una cosa, esistono i diari di lavorazioni che penso siano importantissimi, ma non sono mai stati tradotti, e questa è una cosa molto grave. Per fortuna nei suoi diari, che però appunto non è che coprono tutto l'arco della vita, insomma, appunto, lui appunta un po' tutto, quindi sicuramente da cose private, problemi di soldi, le sue angosce, i suoi sogni, le sue letture, moltissime cose si capiscono perché lui scrive di cose che sta leggendo e si ritrovano puntualmente come suggestioni nelle sue immagini, e segui passo passo anche i tormenti di questa persona. Però io devo dire che mi hanno aiutato molto anche a capire, pur non avendo i diari di lavorazione, avrei dato chissà che cosa per averli, per però capire man mano l'intreccio delle sue amicizie, delle persone. È una miniera in questo senso, è un libro molto interessante. Allora, grazie a Francesca Pirani, questa è la nostra sigla, i nostri titoli di coda. Vi salutano Silvia Toso, Carlo Fabiani, Maddalena Agnisci, Riccardo Amorese, Massimiliano Bonomo, Annalisa Vacca, Leonardo Pieraccioni, Francesco Piccolo, di nuovo Francesca Pirani, ricordiamo Tarkovsky, La nostalgia dell'armonia, poi ovviamente c'era Dario Zonta, concentrato come poche volte. Noi ovviamente ci occupiamo di cinema di consumo, di cinema sofisticato e profondo, perché il cinema è uno, poi ognuno sceglie, no? L'angolo che vuole. Come al solito vi vogliamo abbastanza bene. Alberto Crespi, 436 milioni di euro al minuto. Enrico Magrelli, 450 milioni di euro al giorno. Massimiliano Bonomo, niente. Maddalena Agnisci, qualche lira. Silvia Toso, miliardaria. Riccardo Amore, 100 lire. Dario Zonda, 356 mila euro al minuto, con scatto della risposta.